Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Benvenuti ad una nuova puntata di Un abuso al giorno. Subito la mail, facilissima, unabusoalgiorno@radio24.it. Vi ricordo il mio blog, Guardie o Ladri, sull'home page del Sole 24 Ore. Allora, di cosa parliamo oggi? Di un argomento abbastanza curioso e comunque cavalcatissimo dal ministro Renato Brunetta. Avete riconosciuto tutti, questa è la colonna sonora della Pantera Rosa, interpretata nel film dell'ispettor Clouseau da Peter Sellers. Allora, parliamo di questo perché? Perché sul secolo XIX, alcuni giorni fa, e poi in realtà il dibattito è proseguito per molti giorni, un articolo ha dato notizia di un dipendente di un'azienda municipalizzata che è stato licenziato perché pedinato da uno 007. Il titolo ovviamente dell'articolo è riassuntivo di una vicenda molto molto più complessa. Gli investigatori hanno seguito questo dipendente, che noi chiameremo per sintesi Marco, e hanno scoperto che invece che recarsi nel proprio posto di lavoro in realtà stava con moglie e figli. Premessa: il dipendente si è ben difeso, a quanto sembra, adducendo motivi familiari o comunque dicendo che era anche illegittimo quella sorta di pedinamento, e il Tribunale Civile di Genova gli ha dato ragione perché ha ordinato all'azienda municipalizzata di igiene urbana della città capoluogo ligure di riassumere il lavoratore, che era stato appunto cacciato nel settembre 2008. È un tema molto molto caldo. Sapete che il ministro per la funzione pubblica e l'innovazione tecnologica, Renato Brunetta, proprio dei fannulloni nel pubblico impiego, ne sta facendo un cavallo di battaglia, e devo dire che le amministrazioni in un modo o nell'altro stanno cercando di seguire questa scia. Per parlare di questa vicenda abbastanza delicata, io ho chiamato a interloquire con noi il segretario regionale dell'UGL, Unione Generale dei Lavoratori, sindacato che ha rappresentato anche questo lavoratore, abbiamo detto Marco, che è il signor Fabio Mazza. Buongiorno Mazza. Buongiorno. E ho chiamato a parlarne anche uno dei due avvocati, entrambi donne, del lavoratore cacciato e poi riassunto, l'avvocato Daniela Picasso. Salve Picasso, buongiorno. Sì, buongiorno. Partiamo proprio con l'avvocato Picasso. Perché il Tribunale Civile di Genova ha dato ragione al suo assistito? Il signor Marco, al signor Marco era stata fatta comunque una diagnosi di stato ansioso depressiva. Tutti questi certificati medici indicavano questa diagnosi, che peraltro perveniva da una struttura pubblica. Evidente che questo stato di infermità psichica è compatibile anche con un'attività ludica, seppur modestissima, che si era concretata nella cura praticamente di un giardino, nel riassetto di un campetto di calcio, e quindi trattandosi di un'attività assolutamente compatibile con lo stato di malattia denunciato da tutti i certificati medici e peraltro anche riscontrato in sede di visita fiscale, il giudice ha appunto ritenuto che il licenziamento fosse legittimo proprio perché vi è questa compatibilità. Potrebbe non essere compatibile se ovviamente il certificato di malattia riportava come diagnosi un problema ortopedico. Certamente, quindi riassumendo, questo lavoratore che, come appunto ha lei ricordato, era in preda ad un esaurimento nervoso, era in stato di malattia, stato di malattia non gli impediva di curare il giardino, di fare altri piccoli lavori. Allora, detto questo, io passerei la parola al Mazza, segretario regionale dell'UGL. Voi Mazza vi siete lanciati lancia in resta appunto nella difesa di questo lavoratore, oppure prima avete detto no, guardiamo, vediamoci chiaro, cioè cerchiamo di capire se anche all'interno delle persone che noi difendiamo, i nostri iscritti, c'è qualcuno che fa il furbone, quindi non è giusto che sia tutelato. Come vi siete comportati, Mazz? Ovviamente, noi è stato il primo interesse verificare il comportamento del lavoratore, perché io personalmente che l'ho accompagnato in direzione per giustificare verbalmente la contestazione da debito, ho subito fatto presente che il suo stato di malattia era compatibile col comportamento tenuto. E una precisazione che c'è da fare è che il lavoratore non si è recato in campeggio, ma lui era nella dimora estiva che da diversi anni utilizza per portare la famiglia e va con la famiglia. Quindi lui, avendo questo stato morboso, ha dato l'indirizzo nella dimora estiva. Ecco, io le domando questo perché più che domandarlo all'avvocato, lo domando a lei. Ma com'è possibile che un'azienda, un'impresa, in questo caso anche partecipata interamente da enti pubblici, cade in un errore così grossolano? Tra l'altro, apro una piccola parentesi, noi abbiamo cercato di contattare, di entrare in contatto anche con l'AMIU e avere la voce ufficiale dell'azienda municipalizzata, ma la risposta è stata, due punti, apro virgolette, picche. Chiudo la parentesi, torniamo a lei. Com'è possibile che un'azienda possa cadere in un errore così grossolano? Ma come lo sapeva lei che questa persona è in uno stato così, diciamo, depressivo? Probabilmente lo avrebbe dovuto sapere anche l'azienda. E allora perché accadono queste cose? Perché c'è l'ansia di soddisfare Brunetta? Perché bisogna cacciare tutte le persone che si suppone non facciano niente? Perché c'è il morbo della pantera rosa? Insomma, perché accadono queste cose, Mazza? Ma probabilmente è giusto come dice lei, nel senso che c'è quest'ansia, perché il lavoratore non è un recidivo e quindi non si è capito bene il comportamento e l'accanimento nei suoi confronti. Oltretutto noi non abbiamo contestato il discorso degli investigatori, perché nella causa non è nel merito della causa degli investigatori, certo. è proprio il suo stato di malattia, e quindi l'AMIU l'ha fatto verificare anche dai medici fiscali e hanno confermato la patologia. Quindi mancava il presupposto. Allora le chiedo questo, però facciamo, siccome non abbiamo già parlato, i nostri radioascoltatori lo sanno, abbiamo già parlato nel passato di questi casi di persone che sono state licenziate e poi riassunte. Recentemente abbiamo raccontato di quella dipendente, se non ricordo male, del Ministero della Giustizia, che in Sardegna era andata a partecipare ad una trasmissione televisiva e il giudice anche in quel caso disse che comunque la cosa era compatibile, ma sarà comunque di cose strane. Nella nostra bella Italia ne accadono tanto. Ecco, comunque Mazza, dicevo, ma nel campo della pubblica amministrazione a Genova voi vi siete trovati di fronte a delle persone che erano, diciamocelo francamente, indifendibili, e nei confronti delle persone indifendibili voi come vi comportate come sindacato? Cioè siete a guardia, a tutela di valori e principi di legalità, oppure a volte chiudete un occhio perché comunque quello è un iscritto, quindi un iscritto paga la tessera, dà forza al sindacato, eccetera eccetera eccetera? Assolutamente non è nel costume dell'UGL difendere gli indifendibili. Infatti è già successo in passato che noi abbiamo preso atto della decisione e purtroppo abbiamo dovuto confermare che la decisione dell'azienda è stata legittima, anche in difesa, in tutela di tutti i lavoratori che giornalmente si presentano a fare un lavoro duro come può essere quello dell'operatore ecologico, che non dimentichiamo che opera in mezzo alla strada, in situazioni ambientali non delle migliori. Sì, c'è di peggio nella vita, ma effettivamente c'è di peggio, ma anche sì, tanto di meglio. Esattamente. Io la ringrazio per il suo intervento, perché l'ultima domanda la vorrei fare invece all'avvocato Picasso. Le chiedo questo, avvocato, a questo punto che cosa succede? La partita finisce qui o potrebbe esserci, non so, un appello o comunque un secondo grado? Sì, allora, innanzitutto questo è stato un ricorso per provvedimento d'urgenza. Sì. E quindi diciamo il giudice stabilisce in questa sede soltanto la reintegra del lavoratore. Presumo che comunque la società convenuta al datore di lavoro quindi opponga il provvedimento in sede di reclamo, anche se noi speriamo in qualche modo che poi il lavoratore possa rientrare nell'attività lavorativa, perché riteniamo che appunto poi il lavoro sia sempre la cosa più importante. Che quindi la vicenda venga ricomposta, anche perché speriamo che questa persona abbia interesse a ritornare al lavoro, no? Sì, sì, no, ha sicuramente interesse, proprio perché non fa parte dei cosiddetti fannulloni, al contrario, è sicuramente una persona diligente. Ecco, e lei invece, avvocato, tra l'altro era già, al momento del licenziamento era già tornato a lavorare, ecco, preciso questo, perché la sua malattia era finita e lui era rientrato a lavorare. Ho capito. Ecco, ma lei si è trovata di fronte a cause di questo genere altre volte, oppure che clima avverte? Cioè, per voi ci sarà il lavoro perché si rivolgeranno a voi dei dipendenti pubblici messi nel mirino delle pubbliche amministrazioni, oppure è un caso eccezionale? Ma ce ne sono di vari tipi, però è anche vero che ognuno poi ha la sua storia. Certo. E quindi certo. Non è che si possa tanto riassumere, cioè ogni persona comunque ha una storia diversa dall'altra. Sì, e quindi assolutamente condivisibile. Io la ringrazio per il suo intervento, avvocato Picasso. Prego. Grazie al segretario generale dell'UGL Liguria, il signor Mazza. Ringrazio in regia Carmelo Lauricella, in studio Laura Faggine. Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno.